Castellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Oggi vogliamo omaggiare il grande mattatore che ci ha lasciato questa settimana nel giorno in cui compiva 80 anni. Stiamo parlando di Gigi Proietti, che inizia la sua carriera proprio a teatro con Alleluia, brava gente nel 1970 e la finisce sempre su un palcoscenico come direttore artistico del Globe Theatre, che nasce proprio da una sua idea nel 2003. Ed è il teatro di Villa Borghese il posto scelto per l'orazione funebre del grande attore. Sentiamo come Proietti considerava questo spicchio d'Inghilterra che aveva portato Shakespeare al grande pubblico di Roma in una nostra intervista dell'agosto 2012. Quello è, diciamo, è il mio fiore all'occhiello, è la cosa che mi rende più orgoglioso, perché è stata una vittoria proprio su... non una vittoria, perché non è che abbia lottato per... ma era soprattutto una cosa impensabile 10 anni fa, che un teatro dove si facesse soltanto Shakespeare facesse gli esauriti, così come succede già da anni, insomma. Un'avventura, quella del Globe, durata 17 anni e che Proietti aveva voluto continuare con grande successo anche durante quest'estate di Covid con veri e propri spettacoli. La tigna mia è stata quella di voler fare una stagione non di monologhi, reading, che sono letture, però detto in inglese sembra una lettura. Chi era e come si lavorava con Gigi Proietti? Marco Carniti, regista di molte opere al Globe, ci racconta chi era l'attore scomparso. Gigi era un mare di risate per tutti e un grande uomo di cultura. Ditemi, qual è la via più breve per raggiungere la casa del signor Battista Minola? Mi dicono che ha due figliuole alquanto aggraziate. Sì, ma la più grande è prenotata. Grazie a Gigi Proietti io ho potuto mettere in scena i testi più impegnativi della mia carriera di regista e per questo gliene sono molto, molto riconoscente. Riccardo III, Otello, Come vi piace, As You Like It, e La bismitica domata. Gigi è sposata, una volta sposato l'estetica del regista, ti permetteva di lavorare in totale libertà creativa, ha fatto diventare il Globe un teatro per attori che lui amava tanto. L'unico teatro a Roma che ti permetteva di mettere in scena 20 attori, che ormai per un regista è una cosa impossibile. Gigi ha sempre chiesto a noi registi il rispetto per il testo e di non stare sopra il testo, ma nel testo. Otello! Sorveglia attentamente, se hai occhi per vedere. Ha tradito suo padre, potrebbe tradire anche te. All'ultima volta che l'ho visto, a parte che in questo periodo di lockdown sono potuto andarlo a trovare alcune volte, ma l'ultima volta è proprio venuto a trovarci lui, facendo anche, penso, un notevole sforzo, durante le prove a tavolino dell'inizio della Lucrezia, lo stupro di Lucrezia, facendo una grande sorpresa a queste 7 attrici che partecipavano al progetto, di 7 nazionalità diverse. Ci ha lasciato tutti molto commossi questo suo venirci a salutare, e anzi lo ringrazio ancora adesso, proprio perché voleva dimostrarci quanto a lui ci teneva questo progetto, che è sulla violenza sulle donne, che è stato in fondo l'ultimo progetto del Globe. Sei donna? Ma non un peso morto come te si alludi a me. Ma Cati, io non ti volevo caricare dei pesi, casomai ti volevo coricare di peso. Quello che ci tengo anche a dire è che appunto Gigi gli piaceva essere un contestatore, era un uomo di cultura sopraffina, ci tengo proprio di ricordare questo, di grande cultura, perché uno pensa al comico, no, lui era un uomo che ha letto molto e che poi attraverso il suo talento questa cultura è stata, diciamo, utilizzata verso una strada che per lui era importante, che è quella, la strada del popolo, del comunicare e dell'essere chiari. E quello che è il problema è perdere il più grande attore italiano oggi, perdere la sua risata, il suo sostegno, la sua ironia. E oggi è la sua naturalmente etica del teatro, e oggi io direi come facciamo senza Gigi Proietti. Gigi Proietti era anche un insegnante, aveva aperto il suo laboratorio per far crescere nuovi attori, registi e sceneggiatori come Claudio Pallottini. Armando, era ora. La vostra vista sola. Eh? la vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il gorgonzola? Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, E provoca lutti nel cuore. E provoca rutti de core. L'espresso parenti ed amici. L'espresso fraterni e Parigi. Essere suo allievo è stata senz'altro una fortuna e anche un simbolo di distinzione rispetto a quelli che invece erano riusciti a entrare nell'Accademia, all'Accademia Silvio D'Amico. C'era stata sempre un po' di rivalità, infatti non a caso il primo provino che io feci, come altri con me, la prima domanda, lei ha fatto il laboratorio di proietti, e c'era subito un ghigno, qualcuno di questi disse una volta, proietti, un cabarettista. Fortunatamente poi Proietti si è sempre difeso con le armi del palcoscenico, dove era il numero uno. Guarda qua, pari sordi nel sorpasso. Gassman, non Sordi. Ma perché non era un bel film? No, era un capolavoro. Te credo. Monicelli quando mette le mani a un film gli fa i capolavori. Risi. De che? Sorpassa di Dino Risi. Ma perché Monicelli non è bravo? No, Monicelli è bravissimo. Lo voleva fare, lo faceva pure meglio. Ha voglia, però. Era il cinema italiano, Italian Cinema. Sì, in rete ci sono due cortometraggi, diciamo. Uno è tratto dal film Un'estate al mare, ed è un episodio, La signora delle camelie, che tutti conoscono, dove io faccio il suggeritore, che Gigi ha provato a teatro, l'abbiamo fatto tantissime repliche a teatro, veramente infinite volte, poi lo vide Carlo Vanzina, che decise di metterlo nel film, e il video adesso penso che sia il più visto tra i video italiani di YouTube. Poi c'è un altro che invece è Valtere, che nacque da un'idea mia, lui piacque molto perché è una presa in giro del mondo del cinema, specie di un sottobosco del cinema. Ci divertimmo con la regia di Carlotta a realizzarlo in una mattinata, dovemmo cambiare il copione perché quella mattina che era programmato di girare nevicò a Roma e Gigi ha improvvisato il finale, ideando un finale lì su due piedi, perché Gigi aveva questa grande capacità di improvvisare e poi tenere a mente l'improvvisazione, cioè quando trovava qualcosa che funzionava la registrava immediatamente e non la perdeva più. Pronto? Peppuccio! Il regista. Sì, la Warner Bros. A me meno male, va. Senti, un'altra cosa, una notizia bellissima. Sospendi le ricerche. Ci abbiamo il prota. Sì, l'ho trovato. È certo che te puoi fidare di me, ce l'ho qui davanti. Bergevanotto con uno sguardo proprio forte, viscido, insomma vivace. Cosa mi mancherà? Una bella domanda. Io credo le risate in scena, perché Gigi aveva questa particolarità, che gli piaceva far ridere chi aveva in scena con lui, perché sapeva che quella avrebbe creato una verità per il pubblico, una complicità con il pubblico che lui avrebbe sfruttato in suo favore. Una volta al Sistina lui mi fece talmente tanto ridere che io non riuscii ad andare avanti proprio, e lui mi guardava e diceva vabbè, mo dilla la battuta, dilla, e lui ha strappato 3 applausi, e credo che questa sia la cosa che mi mancherà di più. E stavi lì a ridere in un'atmosfera sospesa. Vi adoro quando siete così mutante e senza. Con le mutande e senza. Armando, dite cose deliranti. E sono un verme e solitario. Sono un verme solitario. Ma c'erano anche i colleghi, i registi e gli amici. Nella scorsa stagione al Globe è arrivato il testo di Ruggero Cappuccio, Shakespeare re di Napoli. I mean that one will. Sono venuto per scampare la morte. Mise all'acqua, a brucia l'acqua, l'acqua a brucia d'amore. O fuoco e l'amore a brucia l'acqua. Love is its water. Proietti ha voluto ospitare al Globe Theater di Roma un mio lavoro dal titolo Shakespeare, re di Napoli, un lavoro sul mistero dei sonetti di Shakespeare. Gigi lo vide appunto all'atto della sua nascita a Roma, 26 anni fa. E quest'estate mi telefonò chiedendomi se fosse venuto il momento, secondo me, di presentare questo spettacolo al Globe. E io naturalmente reagii con molto entusiasmo e lo spettacolo è andato in scena con grande successo e nonostante le sue condizioni di salute richiedessero già una sorveglianza piuttosto attenta a livello medico, lui volle forzare lievemente i precetti scientifici e tornare a rivedere questo spettacolo. Questo dice tutto sulla persona, cioè una persona che aveva visto un lavoro 25 anni prima, che 25 anni dopo lo ricorda e che ritiene di volerlo vedere in scena in quel magnifico Globe, in quella magnifica esperienza che lui ha creato. Un'amicizia, quella tra Cappuccio e Proietti, durata una vita. Io ho conosciuto Gigi Proietti quando avevo 18 anni, quindi 30 anni fa. È una lunga storia fondata su lunghi dialoghi. Quando dico lunghi dialoghi mi riferisco al fatto che la parola fondamentale per lui era alba, cioè con Gigi quando cominciava una serata. Questa serata finiva in genere alle 5, alle 6 del mattino. Ecco, Mazzarò, tuo papà per lo carnevale. Ricordo che ho di Gigi Proietti sul piano lavorativo il ricordo dell'attore italiano tecnicamente più dotato che la nostra nazione abbia mai avuto. Era in grado di coniugare il genere del popolare e il genere del sublime. Sul piano intimo era un uomo straordinario, mai competitivo in maniera sciocca, sempre disponibile con le nuove generazioni per le quali aveva un occhio di assoluto riguardo, di assoluto interesse, e una persona dotata di una perfetta autoironia. Comunque grazie, io volevo, sono tre ore che chiamo, ma non viene nessuno qua, ragazzi, ma no. E facciamo sta fotografia, tecnici. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it anche per segnalarci spettacoli online in attesa di tornare dal vivo. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.